To mwen di nasi kousi pon To jan gede nasi borane La bebe le ti bongo Mwule mamou matakamba E soni sonye di mwamba Mwulu te na bene biwa Oko ese marani Na kweni pona di mwume Yuko kwe mwule a panyolo Senga te mema Le mwen di mwa Loge a pemba moun anko Male anabolino wa e andoro Osi kulio senga tolambo e andoro Masigeri bongo batombe simo andoro Tanya kie, nati kie Nende kie, ne ojo gele wa Na mule mamwese, sume yamba sangwa Quadi